Era nell'aria da qualche giorno, è sicuramente un'ottima notizia, non c'è ombra di dubbio, perché a differenza del decreto del primo aprile che restava molto nel vago, che offriva molti spiragli alle compagnie da crociera per continuare esattamente come prima, come infatti è stato, questo ultimo decreto invece è in qualche modo ultimativo, nel senso che fissa una data, che è quella del primo agosto, segna un divieto da cui non ci sono deroghe, che è quello delle navi sopra le 25.000 tonnellate di stazza, quindi una stazza veramente bassa. Il Clean Passera del 2012 la fissava in 45.000, quindi un criterio sulla dimensione delle navi ancora più a ribasso. Anche questa è un'ottima notizia. Ovviamente non è la vittoria definitiva con la lettera maiuscola, perché questo decreto presenta comunque diverse ombre, nel senso che i risarcimenti alle compagnie da crociera era gridano vendetta, cioè cos'è che noi dobbiamo pagare dei risarcimenti per cosa? A chi? A delle multinazionali finanziarie che hanno per decenni speculato e venduto la nostra città, li dobbiamo anche risarcire, cioè saranno ben loro che dovranno risarcire i cittadini veneziani per tutti i danni, per l'inquinamento, per lo sfruttamento che hanno imposto alla nostra città. L'altra nota, diciamo così, opaca di questo decreto è questa indicazione su l'individuazione di questi quattro approdi temporanei a Porto Marghera. Vero è che questo viene per la prima volta indicata, vengono vincolati alla via e la VAS, quindi sarà molto dura per i fautori della tra virgolette soluzione Marghera far passare quel tipo di soluzione, che soluzione non è, alle commissioni di valutazione impatto ambientale. Quindi se da un lato apre a quel tipo di soluzione, dall'altro con questo obbligo, con questa indicazione di sottoporla alla via, in verità complica la strada per chi vuole portarla a Marghera, che ricordiamo Marghera è tutt'altro che una soluzione. Per portare le navi a Marghera bisogna farle percorrere 26 chilometri dentro la laguna, il canale che dovrebbero percorrere, il cosiddetto canale dei petroli, il Malamocco Marghera, lungo 26 chilometri, è dentro la laguna e soprattutto questo canale è troppo piccolo, è troppo poco largo e troppo poco profondo per consentire lo spostamento del traffico portuale. Quindi bisognerebbe scavare, allargare e approfondire un canale di 26 chilometri dentro la laguna, un lavoro immane, sarebbe un disastro per l'equilibrio idromorfologico della laguna centrale, della laguna sud, e soprattutto è vietato dalla legge, perché la legislazione speciale per Venezia vieta nuovi scavi, vieta ogni tipo di scavo in laguna, proprio perché quella volta ha ragione il legislatore, aveva individuato nello scavo dei canali portuali e nell'erosione della laguna conseguente allo scavo dei canali portuali, aveva appunto individuato in questo la principale fonte di degrado della laguna stessa. Quindi c'è una legge dello Stato che vieta nuovi scavi, avendo sottoposto l'adeguamento delle vie marittime di accesso a eventuali soluzioni provvisorie a Marghera a commissione di impatto ambientale, questa cosa gli complicherà molto la vita. Però è indubbio che è una grandissima vittoria, che è un grandissimo passo avanti, che è veramente, noi dobbiamo ancora rendercene conto, perché dopo un anno di pandemia, dopo il decreto burla del primo aprile, forse la data non è stata casuale, dopo che abbiamo visto ritornare sotto le nostre finestre queste grandi navi, la manifestazione del 5 giugno che ha fatto il giro del mondo eccetera, adesso pensare che comunque dal primo agosto non le vediamo più, non entreranno più, non c'è possibilità di deroga a questo divieto, è una grandissima, grandissima soddisfazione. 10 anni di lotte, 10 anni di mobilitazioni, di assemblee, di ogni tipo di cosa che ci siamo inventati in questi 10 anni, anche in questo paese si riesca ogni tanto a portare a casa qualcosa, per noi è una soddisfazione veramente grande. Infatti volevo proprio chiederti se a tuo avviso, come dire, la tenacia che avete dimostrato è stata l'elemento che ha persuaso poi il governo ad arrivare a questo decreto? Noi ne siamo assolutamente convinti. Prima della mobilitazione del comitato No Grandi Navi nessuno si poneva assolutamente il problema, anche dopo la mobilitazione fino ad adesso nessun partito, cioè il PD non ne parliamo neanche, ma nessun partito è stato al nostro fianco, pur avendo dentro il comitato persone vicine o anche iscritte a tanti partiti diversi, eccetera. Però nessun partito c'è mai stato vicino, è mai stato al nostro fianco, anzi, tutti i partiti sono sempre stati molto attenti a non turbare gli interessi della lobby crocieristica. Già oggi sui giornali, almeno quelli locali, ogni partito storce, tutti i partiti storcono un po' il naso rispetto a questa decisione. È chiaro che il Comitato Grandi Navi è riuscito a costruire una mobilitazione capace di attirare l'attenzione nazionale, internazionale e ultimamente anche globale. È chiaro che anche questo nuovo dossier UNESCO e questa la minaccia di rimettere Venezia tra i siti a rischio del patrimonio mondiale ha pesato anche questa, ma siamo convinti che anche l'UNESCO, è chiaro che crea opinione pubblica anche l'UNESCO, ma anche la subisce in qualche modo, no? Ne partecipa, quindi soprattutto credo che la manifestazione del 5 giugno sia stata, da questo punto di vista, la nostra manifestazione assolutamente più riuscita, perché è riuscita a sbugiardare il governo Draghi e della sua transizione ecologica, che mentre aveva dichiarato al mondo appunto che le navi non passavano più, noi abbiamo invece aperto la ferita e fatto vedere, perché davvero di quella manifestazione ne ha parlato tutto il mondo, dall'Arabia Saudita all'India, passando per l'Australia e gli Stati Uniti, davvero tutto il mondo ha parlato di quella manifestazione e di questa situazione. È chiaro che Draghi, no? L'uomo forte della politica internazionale, messo lì anche un po' perché è quello che deve garantire, no? L'uomo che fa, che non guarda in faccia nessuno, whatever it takes, quello che fa, no? Quello che dice. È chiaro che abbiamo sbugiardato il governo di fronte al mondo e noi sappiamo che il governo questa cosa l'ha subita. Poi di fronte al nuovo dossier UNESCO, il governo ha dovuto prendere l'unica decisione possibile, che è quella che avrebbero dovuto prendere i governi, tra l'altro, degli ultimi 10 anni. Quindi certo, la mobilitazione, la reazione dell'opinione pubblica internazionale, il dossier UNESCO, è tutto un insieme, come sempre, no? Il mondo è certo multicausale, però è chiaro che l'innesco, la miccia, la costanza, l'attenzione, eccetera, dato la tenacia, la costanza e la capacità di riuscire a mettere il dito nella piaga. Non a caso da ieri sera siamo di nuovo sommersi di minacce, di cose, tutti gli affaristi del crocierismo che ci imputano assolutamente questa vittoria, e di cui noi ci facciamo assolutamente orgoglio.